Palla Specchi di Dario Ricci. Buonasera, beh, la classe operaia va in paradiso, viene da dire nel commentare i risultati di questa ottava giornata, e lo faremo grazie anche a Giorgio De Luca in redazione e a Roberto Scaltritti in regia, perché nella giornata in cui perdono sia Milano ieri in casa contro Cremona e Siena sconfitta a Caserta dalla sempre più sorprendente Juve Caserta, vincono invece nei bassi fondi Avellino, Bologna e Montegranaro, classifica che quindi si accorcia, mentre intanto Sassari e Varese le stanno dando cestisticamente, per carità, di santa ragione nel big match in testa alla classifica, con Sassari che avanti ora 28-27 quando mancano 3:36 alla fine del secondo quarto, e Varese chiaramente in Sardegna deve difendere la prima posizione. Insomma, giornata ricca di spunti. Allora partiamo subito dai risultati. Giocate ieri a 7 Emporio Armani Milano, Vanoli Cremona 78-81, poi la vittoria della CEA Roma sull'Umana Rei Venezia 74-69. Oggi alle 12 Lenovo Cantù che supera la Scavolini Banca Marche Pesaro 74-62, e poi i risultati del pomeriggio: Ocnoplast Bologna, Trenkwalder Reggio Emilia 82-74, la vittoria esterna della Sidigas Avellino sul campo dell'Angelico Biella 72-77. Il successo per 93-86 della Sutor Montegranaro sull'Enel Brindisi, e poi la vittoria della Juve Caserta sul Montepaschi Siena per 72-64, per una classifica che vede Varese in testa con 36 punti davanti a Sassari con 34 in attesa dell'esito del big match, Roma solitaria al terzo posto con 32 e Cantù da sola al quarto posto con 30, con due lunghezze su Milano e Siena a quota 28. 26 punti per Reggio Emilia, 22 per Venezia, 20 per Brindisi agganciata da Caserta, 18 per Cremona, 16 per Avellino, Bologna e Montegranaro, più staccate Pesaro a quota 12 e Biella Fanalino di coda a 10 punti. Allora, dicevamo del successo di Caserta su Siena, andiamo subito a Caserta da Carmelo Prestisimoni, il nostro Carmelo Prestisimoni che ha ospite, da quel che vedo, il mio candidato numero uno al titolo d'allenatore dell'anno. Buon trovato, Carmelo. Eccoci qui, buonasera, ben trovati. È proprio così, ospite Pino Sacripanti, il coach manager di questa Juve Caserta che è costata la decima parte di Siena e si conferma a Mazzagrandi, perché dopo Cantù e Sassari manda knockout anche la Montepaschi 72-64 ed è praticamente salva, non ancora aritmeticamente. La chiave di volta della gara è stata quando nel quarto periodo Maresca con una bomba e Mavreides, fino a quel momento impalpabili, hanno confezionato un pacchetto di 6 punti portando lo score sul 50 pari e spostando decisamente l'inerzia della gara in favore campani. Decisivi Akindele con una doppia-doppia, 19 punti, 11 rimbalzi, e Dan Mavreides che si è svegliato nell'ultimo periodo, ha gestito saggiamente la gara, 11 punti e 3 recuperi. Siena invece è apparsa molto stanca dopo la gara in Eurolega contro l'Olympiakos, ha giocato un ultimo periodo sulle ginocchia, non si salva nessuno tra i senesi, neanche Brown e Hackett che sono arrivati e hanno raggiunto la doppia cifra con 10 punti. Pino Sacripanti, allora, insomma, Juve Caserta praticamente salva, raggiunto l'obiettivo, non è più un miracolo questa Juve Caserta, perché oramai, insomma, è una squadra che sa giocare a pallacanestro ed il merito è di tutto un ambiente che si è stretto intorno alla tua squadra. Sì, sicuramente, sono particolarmente felice perché abbiamo vinto una partita in casa con Siena dopo aver espugnato Bologna. Ancora una volta mettendo la difesa davanti a tutto, abbiamo fatto fare pochissimi punti a Siena, siamo stati insieme nei momenti difficili, quando nel terzo quarto abbiamo fatto fatica a far canestro, però di squadra veramente abbiamo risolto una gara contro una Siena che bisogna comunque ammettere veniva da una partita di Eurolega molto importante, persa all'ultimo secondo e quindi magari un pochino stanca. Noi non abbiamo avuto esitazioni nell'usare tanta energia, tanta aggressività, abbiamo cercato di fare le cose per bene, soprattutto in attacco, nella gestione del tempo, e alla fine la grande difesa ci ha premiato e ci ha premiato anche una classifica che non ci vede matematicamente salvi, ma quasi. E questa è una squadra che guarda anche al futuro, Pino, perché con l'ingresso di Gianluca Galimberti nella società, insomma, È chiaro che la Juve Caserta l'anno prossimo magari può puntare a qualche cosa sicuramente di più della salvezza. Ma sì, anche se adesso noi puntiamo nel mettere a posto la società da qua fino alla fine della stagione, che abbiamo avuto grandi difficoltà, puntiamo a fare ancora queste 7 partite, non ci precludiamo niente, giochiamo una per uno e cerchiamo a livello societario di arrivare al 30 giugno senza debiti con la società a pari, poi dopo lo vedremo con calma tutto ciò che succederà. Un pensierino ai playoff? Ma un pensierino a partita dopo partita, se poi saremo così bravi ad arrivarci vicino, molto molto volentieri. Dario, se hai domande, Pino Sacripanti ti ascolta. Beh, coach, no, le chiedo questo, se si sente in corsa per questo titolo della panchina dell'anno, perché tanti bravi allenatori quest'anno, tante squadre rivelazioni, però quello che sta facendo Caserta, secondo me, è una nota superiore. Ah, io ringrazio tantissimo, però se viene sono stracontentissimo, però a me interessa Caserta, interessa la squadra, interessa la società, e il risultato sempre di squadra è sempre quello migliore che quello individuale. Baratterei volentieri il mio così allenatore dell'anno per fare dei playoff con questo gruppo fantastico e questo pubblico che ci sostiene sempre. Benissimo, grazie a Carmelo Prestisimone e a coach Pino Sacripanti. Intanto 33 pari tra Sassari e Varese a 10 secondi, anzi adesso Varese passa sul 35-33 a 6 secondi dalla fine del secondo quarto. Vediamo un po' Drake Diner se fa il pari. No, rimbalzo offensivo di Brian Sacchetti. Ah, bravo, bel canestro proprio a 6 decimi, 35 pari e sta per finire il secondo quarto e quindi si va all'intervallo lungo. Stefano Valenti, ben trovato Stefano. Ciao, buonasera a voi. Allora Stefano, raccontaci un po' di questa vittoria di Bologna su Reggio Emilia nel derby emiliano. Finalmente Bologna torna al successo. Sì, è vero, tra la squadra che vinceva in fila 4 partite e quella che aveva perso 10 delle ultime 11, ovviamente ha vinto quest'ultima, cioè Bologna, che ha meritato sicuramente questa vittoria contro una Reggio Emilia che ha approcciato la partita molto, molto male, molto molle. Forse, non lo so, sentiva un po' il derby, ma al tempo stesso sentiva molto, molto sicura di quello che del resto di buono aveva fatto vedere fino ad oggi. La nota di oggi è inevitabilmente il debutto di Jacopo Pulle nelle file di Bologna, ha segnato subito 22 punti, giocato 20 minuti e spiccioli, 5 su 6 da 2, 3 su 5 da 3, 3 su 6 liberi. E è stato lui che ha segnato tra l'altro il canestro a 3 punti che ha un po' chiuso i conti quando Reggio era stata capace di portarsi fino a 4 punti in una rimonta che però non ha mai trovato la continuità necessaria per battere questa Bologna tutto sommato volenterosa e che Luca Becchi sta cercando di rimettere in carreggiata. Eh sì, sta riprovando a rimettere in linea. Beh, senti Stefano, ti chiedo anche un commento su una giornata che vede praticamente vincente tutta la parte destra della classifica, perché vincono Caserta, Cremona, Avellino, Bologna, Montegranaro, insomma classifica che si accorcia al di là del fatto che cadono Milano e Siena. Sì, è vero, hanno vinto 5 delle ultime 7 squadre della classifica, se non sbaglio, e tra l'altro c'era anche uno scontro diretto che era quello tra Biella e Avellino. È una classifica per certi versi che testimonia l'equilibrio di quest'anno, c'è equilibrio e c'è vivacità anche in coda, e oggi si direbbe che la lotta salvezza è ristretta a Pesaro e Biella, con Pesaro che è il 2-0 nei confronti di Biella. Non credo che sia così perché ci sono ancora partite da giocare e mi sembra che potrebbe essere un discorso che potrebbe anche riaprire altre squadre, però è bello apprezzare al di là del successo di Bologna, che magari si è visto, è intervenuto sul mercato e ha trovato la chiave per battere una delle migliori squadre dell'anno. È bello vedere come il Montegranaro continua a lottare nonostante le notizie preoccupanti che escono sul suo futuro, e così come dire Avellino stessa che senza Lakovic oggi è riuscita a vincere una partita che obiettivamente la mette quasi al riparo. Il problema resta per Biella, neanche fortunata, perché il secondo infortunio di stagione per Soragni ovviamente è un mattone che pesa sul futuro della squadra pieno. Nella stanza dei bottoni biellesi il buon Matteo ha sicuramente un ruolo fondamentale. Grazie Stefano Valenti, salutiamo il nostro ospite Andrea Trinchieri, coach di Cantù e della nazionale greca. Buonasera coach. Buonasera a voi. Beh, una giornata così particolare, coach, in cui cadono Siena e Milano, vincono tutte quelle che stanno dall'ottavo posto in giù, battere Pesaro in casa è forse anche qualcosina in più che fare il proprio compito, no? Prima regola non far danni, oggi era la giornata pericolosissima e quindi abbiamo fatto il nostro lavoro, una partita solida, molto stabile, e questo ci ha permesso di vincere con Pesaro. Senta, l'inserimento di Mancinelli come procede? Perché dal passaggio tra Marcosville e Mancinelli, al di là del valore specifico dei due giocatori, c'è anche una filosofia di gioco diversa. Come procede questo inserimento del capitano azzurro? Beh, oggi non è stato autore di una partita memorabile. Poi in queste situazioni, prima di colpevolizzare un giocatore, penso che il lavoro dell'allenatore sia anche quello di analizzare e di provare ad aiutare un giocatore sicuramente forte come il Mancio, sicuramente un giocatore completamente diverso, perché va a pestare delle zone del campo completamente diverse da quelle di Marcosville. Io credo che la stagione di Mancinelli, per certi versi, non è ancora iniziata. La lunga inattività non gli ha giovato, però non posso dimenticare il valore del giocatore, quindi cercheremo in tutti i modi di trovare uno spazio tecnico, proprio uno spazio sul campo per tirare fuori il meglio delle sue potenzialità, però avremo anche bisogno del suo aiuto, perché poi quando c'è distanza tra quello che puoi fare e quello che fai, per colmare questa distanza i passi devono essere fatti da ambo i lati, dalla squadra, dall'allenatore e anche dal Mancio. Beh, insomma, buon intenditore, poche parole direi. Palla spicchi. Ancora insieme a Palla Spicchi, ancora insieme con Andrea Trinchieri, coach di Cantù. Beh, coach, ancora due rapidissime domande. La prima, quarto posto in solitaria, quanto pesa in questo momento della stagione? Niente, perché con quest'anno mi sembra che ci siano ancora tanti scontri diretti. Mi sembra che ogni domenica non si sa cosa succederà, come l'avete detto voi, vi ascoltavo prima. C'è un equilibrio e una imprevedibilità che non si ricordava da anni, e quindi questo è un quarto posto che mi tengo strettissimo, ma so che sarà sottoposto a attacchi continui, perché le due squadre che abbiamo dietro sono niente poco di meno che Siena e Milano. E Milano, davanti c'è Roma che è autore di un campionato eccellente. Ogni domenica bisogna andare in campo e provare a vincere e anche riuscirci per mantenere le posizioni. Senta coach, le faccio una domanda da allenatore della Grecia. Beh, Spanoulis e Diamantidis godono di ottima salute, e quando invece la salute non c'è, colmano con la classe e l'esperienza. Ma è pronto a chiamare anche questo Kofos, che sta facendo benissimo a Denver, nella Denver di Gallinari, 16 punti e 18 rimbalzi contro Memphis due notti fa? Se tutto va come deve andare, sarà il centro titolare. E allora, insomma, almeno quel ruolo, anche quel ruolo è coperto, e agli europei poi ci divertiremo, insomma. Speriamo. Insomma, non troppo contro gli azzurri, cerchiamo un po' di ci mancherebbe. Il bon ton prima di tutto. Andrea Trinchieri, grazie per essere stato nostro ospite, torniamo a sentirci nel corso di questo campionato. Carlo Genta, ben ritrovato, vi ricordo, domani alle 14 siamo tutti convocati da te, qui su Radio Vedini, tutti convocati, assolutamente, per parlare di tutto. Non mi sembra che argomenti ce ne siano. Assolutamente, tra il calcio ti divertirei con Super Mario, Super Edison, tra storie di calcio e anche un po' a bordo campo, se ne sento di tutti i colori. Ma rimanendo sul parquet invece, Carlo, domenica rivoluzionaria in Serie A, perché come dicevamo con i nostri ospiti, vince tutta la parte destra della classifica, ulteriore riprova di quell'equilibrio che è un po' il tratto distintivo di quest'annata. Sì, è l'annata dell'equilibrio, ma direi finalmente, insomma, dopo anni segnati dal dominio di Siena, che non lasciava scampo neanche alle speranze, adesso quantomeno c'è una bella battaglia per i play-off. Poi credo che alla fine ci arriveranno le solite note, però mai come quest'anno ci si può pure sbagliare. fosse stato ancora in linea Andrea Trinchieri, gli avrei fatto la più difficile delle domande, cioè se Varese può vincere lo scudetto, figurati chiederlo all'allenatore di Cantù. Mi sa che meno male che forse l'avremmo messo in difficoltà. No, attaccava il telefono, no, perché il coach Trinchieri è sempre cortesissimo e sa stare al gioco. Beh, detto questo, stiamo vedendo un 35 pari davvero spettacolare in questo big match, che magari dirà poco per la classifica al momento attuale, ma forse qualcosina di più in chiave anche playoff, a livello di stato emotivo, darà il risultato di questa sera. Beh sì, comunque nessuno si sarebbe mai aspettato né la neve il 17 di marzo né sempre il 17 di marzo un Varese-Sassari che è prima contro seconda. Questo ha riprova di quanto abbiamo detto prima, cioè questa è l'annata del grande equilibrio, è impossibile capire quali saranno i valori, probabilmente dovremmo metterci lì con il pallottoliere a disegnare la griglia dei playoff all'ultima giornata, però ben venga tutto questo, insomma, ben venga tutto questo, anche perché sappiamo benissimo che l'incertezza è il sale di ogni competizione sportiva, mentre quello che è successo negli ultimi anni, insomma, è inutile nasconderlo, ha tolto molto interesse al pathos del nostro campionato, quindi va bene così, Dario, che vincano quelle dietro, che si scannino tutti per un posto al sole nei playoff, insomma il campionato di basket è bello così. E noi ci divertiamo, e noi ci divertiamo, e conteranno come non mai i bioritmi nel mese di maggio delle protagoniste. Grazie Carlo, domani alle 14 tutti convocati da Carlo Genta. Mi raccomando, risultati della Lega 2, settima di ritorno, Ferentino, Trento, 86-83, Capo d'Orlando, Iesi, 116-91, 59-54 tra Imola e Barcellona, Scafati, 68, Pistoia, 72, Forlì, Trieste, 86-76, 65-72 la vittoria di Verona a Bologna, Casale Monferrato sconfitto in casa da Veroli, 75-69 riposa Brescia. Benvenuto Flavio Tranquillo. Buonasera. Allora, professor Tranquillo, gran finale con te, come d'abitudine. Beh, abbiamo parlato tanto della parte destra della classifica, però è una giornata in cui perdono Milano e Siena, varrebbe spenderci due parole. Sconfitte magari diverse, ma per alcuni aspetti forse simili, Flavio? Beh, forse, non so, no, mi sembra che la situazione di Siena sia molto particolare, quella di Milano altrettanto peculiare, però di certo è non solo giornalisticamente un motivo che siano quinta e sesta con 14 vittorie e 9 sconfitte, lo stesso record tutte e due, partendo da premesse diverse, con sviluppi diversi, con un'Eurolega diversa, però sono in una zona di classifica che di certo non è consona al valore dell'una e al rendimento in Eurolega dell'altra. Ti ricordi domenica scorsa dicevamo che quel girone di Eurolega poteva andare a complicarsi maledettamente, e la sconfitta casalinga con l'Olympiacos è stata foriera proprio di questo garbuglio in classifica che ora è difficilissimo dipanare, no? E adesso sì, adesso sono rientrate Caffè Laborale e il Maccabi, hanno delle oggettive possibilità di provarci fino in fondo e adesso non solo qualificarsi con il vantaggio del fattore campo, qualificarsi punto è sicuramente una questione più complicata di come non fosse qualche giorno fa. E pensiamo che Siena aveva chiuso l'andata con un fantastico 7-1 di record. Domenica mi ero forzato, avevo parlato bene di Milano, perché a me questo roster non piace, ho i dubbi sulla conduzione tecnica, e per carità, ognuno ha le sue opinioni. Ero arrivato a spendere due parole buone, arriva il KO con Cremona, vatti a fidare. No, beh, fidarsi mi sembra che non ci siano gli elementi per fidarsi, ma questo non sia una scoperta di questo sabato. Cremona è una squadra da non sottovalutare in questo momento, a livello di motivazione, a livello di palla leggera, e sa benissimo che la classifica è talmente corta che non aveva la possibilità per un paio di vittorie di dire ormai siamo fuori dalla zona pericolo. Poi le assenze di Milano, poi molte altre cose, però mi sembra abbastanza chiaro che indipendentemente da come finirà la stagione, anche in questa stagione Milano è stata l'unica vera avversaria all'altezza dell'Olimpia. Sì, è vero. Se, prima deve battere se stessa e poi può cominciare a ragionare degli avversari. Tutte queste vittorie nella parte destra della classifica vuol dire anche, per carità, roster comunque all'altezza di un campionato così equilibrato, ma anche che la paura ha cominciato a far 90, perché a perdere quella di oggi qualcuno si ritrovava risucchiato veramente nei bassi fondi. Eh sì, sicuramente da questo punto di vista le vittorie di Avellino e Bologna, per esempio, sono fondamentali, non che abbiano definitivamente risolto la questione, però sono due vittorie che pesano tantissimo, anche perché quella di Avellino arriva contro Biella e quindi una squadra interessata a maggior ragione dalla stessa zona della classifica. Dicevamo anche con Stefano Valenti, preziosa, importante, significativa anche la vittoria di Montegranaro, società tra quelle con i conti scricchiolanti, forse più a rischio in questo momento. Sì, anche se è proprio la classica situazione in cui si va molto in altalena e a periodi di grande down corrispondono quasi ciclicamente periodi di grande unità, perché questa è chiaramente una di quelle situazioni che unisce, perché è un qualcosa che è comune a tutto il gruppo. La questione dei conti scricchiolanti è complessa e andrebbe affrontata seriamente. Se devo dire la verità, non mi sembra che ci sia questo tipo di volontà per adesso. O di lungimiranza, che su per giù poi è la stessa cosa. Grazie Flavio Tranquillo, ci ritroviamo domenica, Non mancherò. Benissimo, allora grazie a Flavio Tranquillo, grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Palla Spicchi finisce qui, quando Sassari e Varese hanno appena ricominciato il secondo tempo, siamo ancora sul 35 pari dei primi 20 minuti di gioco. Io invece resto a farvi ancora un po' di compagnia col grande sport della domenica di Radio 24.